Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, Olga, Debs e Priscilla. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che vi tiene per l'appunto compagnia il sabato pomeriggio sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e a partire da lunedì sul nostro sito www.radiovanloon.info. Puntata particolare questa, è l'ultima puntata della stagione. La redazione dopo parecchio tempo è al completo, quindi questo è sicuramente fonte di gioia per il sottoscritto e spero che sia fonte di gioia anche per voi. E come ogni puntata che va a chiudere una stagione, la facciamo dandovi qualche spunto per l'estate, qualche spunto per le vacanze. Lo facciamo, come sapete, a Natale per i libri di storia da mettere sotto l'albero, e lo facciamo d'estate con i libri e scopriremo cosa da me da portare sotto l'ombrellone per andare al mare quando e come ci andremo tutte e tutti, ma questa è un'altra discussione. Allora, il Frey ha iniziato, quindi il Frey fa un po' gli onori di casa dando l'avvio a questa puntata di suggerimenti per leggere, discutere e parlare di storia anche in vacanza. Se fossimo un programma veramente pop, partiremmo con una citazione di Negrita di che direbbe Rotolando verso sud, ma in realtà non siamo un programma pop, però prendiamo questa suggestione. Perché? Perché con i suggerimenti che vi volevo proporre mi sposto veramente da un continente, quel che c'è più familiare, quello dell'Europa, verso quei territori che tradizionalmente, storicamente, con delle categorie oramai superate, venivano chiamati quelli del sud del mondo, del terzo, del quarto mondo anche addirittura, ma queste sono parole che ci servono. Iniziamo dall'America Latina, con un libro molto bello scritto da due giornalisti, Gabriella Saba e Alfredo Somoza, voce di Radio Popolare, che scrivono Un continente da favola, 30 leggendarie storie latinoamericane, edito da Rosenberg e Sellier nel 2018. È un libro molto carino perché per l'appunto racconta tramite 30 storie il Sud America. Storie di personaggi naturalmente famosi, ma non così tanto famosi, cioè per capirsi Zapata e Che Guevara non ci sono, non c'è neanche il subcomandante Marcos. Però ci sono dei personaggi che hanno conosciuto una certa importanza nel panorama sudamericano e che le vengono utilizzate da questi due autori per raccontare questo continente nei suoi aspetti positivi e anche nei suoi aspetti negativi. Infatti colpisce molto che il libro inizia con un capitolo intitolato I Signori del Male e finisce con Alla ricerca dell'utopia, quindi male e bene, due elementi che fanno parte della storia sudamericana e che raccontano per l'appunto questo continente. Particolarmente consigliate le biografie, fra quelle che possiamo trovare, di Tupac Amaru, molto bella anche la biografia che chiude questo libro, che è dedicata a Chico Mendes, il sindacalista della foresta amazzonica ucciso dai grandi latifondisti. Andando velocissimi ci spostiamo dall'altro lato dell'oceano Atlantico, rimanendo sempre a sud per l'appunto, andando in Africa, ma in Africa che potremmo andare anche in Asia, potremmo ritornare in Sud America con un disco. Il disco si intitola Parler d'Amné de la Terre, des Bois de Lutte 1969-1988, perché non riesco a ripetervelo in francese tutto quanto. È un disco curato da Rocher, un rapper francese che raccoglie in questo prodotto uscito in Francia per l'etichetta Ors Cadré, dai dannati della terra, e racconta la memoria della Francia, ma racconta anche la memoria di parte dei territori che sono legati all'area francofona, che sono i territori delle colonie, per consegnare questa memoria ai giovani appassionati del rap francese, molto spesso provenienti da contesti di migrazione, che purtroppo non hanno memoria di quello che è successo nei loro continenti d'origine, diciamo, ma anche nel loro paese. Rocher, per regalare questa memoria, la memoria della generazione dei genitori, va a recuperare canti di lotta delle fabbriche, va a recuperare canti della migrazione, va a recuperare musicisti e musiciste dell'Africa, dei territori ex coloniali. Troviamo infatti canti che vengono dalla Nuova Caledonia, i Kanak, dalle Mauritius, il Gabon, il Burkina Faso, territori che molto spesso si dimenticano ma che hanno raccontato a loro modo anche una grande rivoluzione. Di questa grande rivoluzione ne prendiamo un pezzettino che viene dal Burkina Faso, con questo ascolto che vi propongo per assaggiare un po' questo disco. E la voce è quella di Abdoulaye Cissé, un musicista protagonista della rivoluzione di Thomas Sankara del Burkina Faso, e la canzone Levature, gli avvoltoi, e un po' capiamo quello che ci vuole raccontare anche lo Sheikh con questo disco. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit, et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit, et tous les hommes encore ensommeillés se sont dressés comme au cri d'une alarme, et le vautour a repris son vol. Il est reparti, je ne sais où. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Toujours à la même heure, plus de 100 vautours ont plané dans la nuit. Et sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Bentornate e bentornati sui 103.1 di Radio Città Fujiko, siete sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia. Questa è l'ultima puntata della stagione 2018-19 e continuiamo quindi con i consigli di lettura per questa caldissima estate. Allora, i miei consigli di lettura sono un libro che parla di una realtà autogestita e di un festival, e gli altri tre riguardano la storiografia femminista. Quindi partiamo da quello appunto fuori dal cerchio. È un libro che si chiama Un calcio al razzismo, No Racism Cup, 10 anni di antirazzismo nel Salento, a cura del collettivo organizzativo. Questo libro non è un libro di storia classico, ma è il racconto da parte dei protagonisti del festival che si tiene da 10 anni attorno a Lecce. Il festival è la No Racism Cup, probabilmente molti di voi ne hanno sentito parlare, e dopo 10 anni di attività di questo festival di musica, cultura e sport popolare nel Salento, gli organizzatori e le organizzatrici hanno deciso di fare un libro. Ci piaceva l'idea di appunto di compagni e compagne che decidono di salvaguardare la propria storia e di raccontarla. Il libro è caratterizzato, oltre dalla storia scritta dagli organizzatori, da una serie di immagini con tutte le varie locandine e varie interviste, e i disegni sono fatti da Bifolco e Keye e Matteo Rizzo. Per quanto invece riguarda la parte, diciamo, più riguardante la storia delle donne, i miei consigli di lettura vanno su tre libri che citerò, diciamo, perché non possiamo approfondire. Uno è L'emersione imprevista, il movimento delle lesbiche in Italia negli anni 70 e 80 di Elena Biagini, pubblicato da Edizioni ETS nel 2018, ed è un libro, un vero e proprio libro di storia, un classico saggio che affronta la soggettività lesbica in un'ottica di movimento, e infatti racconta il movimento delle lesbiche. Prende un arco di tempo molto largo, dagli anni praticamente dal femminismo, da quando le lesbiche iniziano ad avere una propria soggettività, fino ad arrivare a tempi più recenti. Poi passiamo ai libri delle donne case editrici femministe degli anni 70, a cura di Vera Navarria, che racconta, sempre partendo dagli anni 70 in una prospettiva transnazionale, quindi non solo con l'Italia, una delle più grandi produzioni del femminismo, ovvero l'editoria, le case editrici e tutto ciò che c'è attorno. Poi passiamo alla Nuova politica delle donne, il femminismo in Italia 1968-1983 di Maud Ann Brake, che dall'Università di Glasgow ha prodotto un libro che racconta il femminismo italiano passando per la storia di alcune città. Ci ascoltiamo Penso diverso dei Colle del Fomento dall'album Adversus. Ora stai dove ti dicono di stare e ti ripeti che era quello che volevi, e mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi, e mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male mentre il mondo intorno si sgretola. Tu chiudi la tua porta e spegni il segnale, è un confine sottile, chi è dentro è dentro, chi è fuori è un bersaglio, mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio. E mi parli di chi sale, di chi scende, di chi vince, di chi perde, quasi mi convinci che contano soltanto tanti primi, gli altri non valgono niente. Ma io penso diverso, ostinato e contrario, resto avverso al tuo pensiero perverso che mette tutti su un unico binario. Tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici. Tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e obbedisci da bravo soldato, un spirro dentro assunto a soldato. Ma io penso diverso, in un'altra direzione, vado solo verso il basso, perché è lì che trovo il sole. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, odio chi ci controlla, ammassa la gente e la sfolla, nemmeno processa gli infami, alla fine non pagano nulla. Se processa infanga e condona, gli assassini in divisa perdona, tutto quanto approssimativo, ma se interessa a loro funziona. Questa è guerra, guerra rispondo, con nessuna bandiera di sfondo, con nessuna certezza al comando, guardi e filo spinato sul mondo. Ed il tempo non cambia, peggiora, bugie dentro i libri di storia, ascoltare e ubbidire non fa per me, spatta i tacchi a chi ci divora. Esse o non esse, questo è il problema, in esse o esse questo sistema, cambiano piani, saltano conti, per campare uno muoiono in molti e muoiono in troppi, e ho voglia di uccidere chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, ha imbellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo. Siete su Radio Città Fujiko, siete sulle frequenze di Vallunda, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E noi redattori al completo vi stiamo raccontando un po' di libri che ci sono piaciuti e che vi vorremmo consigliare per l'estate, quando accaldatissimi sarete o sotto l'ombrellone o in montagna. Abbiamo parlato con Frey di Sud America e del sud del mondo, abbiamo continuato con Debs e i femminismi, io invece vi parlo di un paio di libri sulla resistenza, l'antifascismo e il fascismo. Uno di questi libri è nella top 5 dei bestseller dei saggi, ma vale la pena spenderci un minuto di parole. Questo è il libro di Francesco Filippi, che è uno storico della mentalità, che ha messo insieme un libricino agile edito da Bollati Boringhieri, che si chiama Mussolini ha fatto anche cose buone, con il sottotitolo Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, ed è un libro che avremmo in realtà voluto scrivere tutti, perché smentisce con fonti alla mano, ma con un po' di ironia e leggerezza, tutte le fake news che girano, continuano a girare e hanno girato sul fascismo. Infatti per esempio i capitoli sono il duce bonificatore, il duce costruttore, il duce economista, il duce femminista, e ci accompagna veramente mano per mano smontando pezzo pezzo le fake news sul fascismo, che molte volte cominciano proprio con però Mussolini ha fatto anche cose buone. Rimanendo sempre nell'ambito di antifascismo e resistenza e fascismo, un altro libro, questa volta per narrativa per ragazzi, ma come al solito questi libri per ragazzi sono anche molto utili e molto belli per gli adulti. Il libro si chiama La bella resistenza, l'antifascismo raccontato ai ragazzi. Lo scrittore, che è uno storico e costruisce manuali di storia per la scuola, quindi una persona competente per i ragazzi, si chiama Biagio Goldstein Bolokan, con illustrazioni bellissime di Matteo Berton. Goldstein Bolokan, già con questo nome quasi esotico, ci racconta la storia della sua famiglia, i Goldstein appunto, che per 20 anni hanno attraversato il ventennio appunto, diventando antifascisti e entrando nella resistenza. Loro sono ebrei e quindi con la semplicità che il racconto, semplicità tra virgolette, che è il racconto di una famiglia, davvero Goldstein ci porta mano per mano e ci spiega il ventennio fascista. Ce lo spiega in modo semplice ma non semplicistico, adatto ai ragazzi, ma ripeto, anche adatto moltissimo ai lettori più grandi. Il libro è edito da Feltrinelli ed è uscito qualche mese fa. Ve lo consigliamo sia per adulti sia per bambini. Io vi lascio con una canzone famosissima di Fela Kuti. Fela Kuti è nato in Nigeria, è un attivista politico, lo conoscono tutti, e questa è la sua canzone più famosa, dall'album che esce nel 1975 ed è omonimo. L'album e la canzone si chiamano Zombie, e gli zombie sono i soldati e la polizia nigeriana che spara a comando contro la popolazione civile. Fujiko, siete sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, siete sempre su Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, viaggio fra canzoni diverse, sonorità diverse, libri diversi, e riprendiamo dando la parola a una nostra che era da un pochettino che non era qua con noi in redazione. Ciao Priscilla, ben trovata. Ciao, ben trovata. Allora, dacci subito quella sorpresa che stiamo aspettando, che farà piacere sicuramente avere ai nostri ascoltatori. La sorpresa che stiamo aspettando è la pubblicazione del mio libro, che si intitola Siamo nati da soli, punk rock e politica in Italia e in Gran Bretagna 1977-1984, che è in uscita a brevissimo, quindi vi auguro di veramente godervelo sotto il sole, per Pacini Editore di Pisa. Ok, perfetto, quindi prima di andare in spiaggia passate in libreria quando sarà luglio e andate a cercare il libro di Alessia Masini, Siamo nati da soli. Non vi spoileriamo il contenuto, anche se è molto immaginabile, perché il libro di Alessia sarà dedicata alla prima puntata della stagione 2019-2020. Quindi questo per dire che saremo di nuovo a settembre-ottobre, vediamo un attimo come gira il calendario, di nuovo in vostra compagnia. Ma Priscilla non è con noi solamente per parlare di se stessa, per quanto le piaccia, ma anche per presentarci un altro libro, vai! Allora io vi presento un altro libro che più o meno ha lo stesso scopo del mio libro, che si intitola... Ambizioso quindi. È ambizioso, certo. Si intitola My Riot, Agnostic Front, la mia vita hardcore. E praticamente è il libro di Roger Miret, scritto insieme al giornalista musicale John Widenhorn, se l'ho pronunciato bene, spero di sì, edito per Red Star Press El Nation Libri 2019. Ed è appunto l'autobiografia di Roger Miret, frontman della storica band hardcore newyorkese Agnostic Front, scritta appunto a partire dalla sua esperienza personale nella scena hardcore newyorkese tra gli anni 70 e anni 80, però in questo modo, a partire anche dalle sue storie complicate ed esasperate, cerca di raccontare un po' qual era la scena, non solo la scena punk e hardcore degli Stati Uniti, ma qual era anche l'orizzonte politico e socioculturale dell'epoca. Per questo vi dico che è un po' simile a quello, a qual è lo scopo del mio libro, perché appunto è una ricostruzione biografica la sua, la mia si basa su delle fonti storiche, ma entrambe hanno l'obiettivo appunto di raccontare un periodo storico ben preciso, cioè quello dell'apice dell'hardcore. Ok, quindi anche libri che attraversano contenuti e caratteristiche diverse che vi permettono di avere una panoramica sulla storia, per l'appunto come ci piace a noi, attraverso canali differenti, attraverso linguaggi differenti che non sono solamente quelli del saggio più classico o delle lezioni di San Giovanni in Monte. Come ha detto Fer all'inizio della puntata, questa è la nostra ultima puntata, siamo arrivati con una cavalcata veramente con più di 30 puntate d'ottobre, adesso vi abbiamo tenuto compagnia per tutti questi mesi, torneremo a farvi compagnia ad ottobre sulle frequenze di Radio Città Fujiko e spero davvero che sia un'altra bellissima stagione come questa. Io vi ricordo però che in estate non vi lasciamo da soli, se volete, se sentite la nostra mancanza e volete risentirvi i podcast di questa stagione e di quella precedente, non dovete far altro che andare sul sito www.radiovallun2o.info, cliccare play e ci sentirete e sentirete le nostre bellissime voci. Naturalmente accompagnate anche da tutti i riferimenti bibliografici che vi abbiamo citato in questa puntata. Un'altra cosa che volevo ricordare, i social, su Facebook saremo ancora presenti, saremo e vi ricorderemo appunto tutte le novità che ci saranno a ottobre e tutto quello che abbiamo fatto in questa stagione. Su Twitter il nostro account, seguiteci anche, ed è Radio Vallun, cercateci. Bene, però prima di lasciare la parola a Priscilla che ci presenta l'ultimo pezzo della puntata, intanto un augurio di buona estate a tutte e tutti da Frey. Debs, buona estate. Olga. E Priscilla, che però è l'ultima e l'unica che non ha lanciato musica. Quindi io adesso, nella tradizione di Vallun, vorrei anche ricordarvi un'agenda di appuntamenti, ovvero a 10 anni dall'ultima reunion tornano in tour i Kina, che sono partiti da Valle d'Aosta, terra di origine, l'8 giugno, passeranno per Milano questo fine settimana, poi arrivano al Forte Prenestino a Roma il 28 giugno e finalmente anche in Emilia Romagna a Ferrara il 6 di luglio. Proietteranno in questa occasione anche un documentario molto bello dedicato appunto alla storia della band, che si intitola Se ho vinto, se ho perso, dall'omonimo album del 1989. È un documentario realizzato dal regista altrettanto valdostano Gianluca Rossi, e dall'album Se ho vinto, se ho perso io vorrei dedicare una canzone, trarre questa canzone che si intitola La forza del sogno e dedicarlo a XM. Vi invitiamo a partecipare al corteo del 29 giugno, ore 15, partenza da Piazza 20 Settembre, in difesa di XM24 e ribadire che esiste un'altra città contro il nulla che avanza. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti, da Frey, Debs, Olga e Priscilla. Ciao! Thank you.